Ué, P4 Grego Buu. Finta filigrana nel mio portagrana Prada. Nella stanza grossi giri di Miss Don comunitaria. Tira aria di mitraglia, una troia tira l'altra. Quando passe di filagra ce ne abbiamo migliaia. Ce ne andiamo in Moldavia a caricare il bestiame. Solo dame che hanno due grosse granate detonate. Non si guarda ma si viene in bocca a cavalla donata. Evitiamo tante grane con la polizia locale. Quando scendono in 40 per perquisire il locale, non sa ha scritto un verbale, ringraziamo il sesso orale. Ora vattene a fanculo altrove a fare il caporale. Oppure la volta prossima potrebbe finir male. Meno male, col sesso senso animale alle spalle. Amici nelle fiamme gialle, fenomena. Le mie maiale addestrate, se gli diamo il segnale non riescono a piarle. Finta filigrana. Fila, filagra. Finta filigrana. Fila, filagra. Finta filigrana. Fila, filagra. Finta filigrana. Fila, operazione. Somarella sfinita il mio segnale. Tutte quante state ferme con le dita, operazione. Ci sta la polizia al mio segnale. Fate finta che qui non si vende fica. A volte sì, a volte sì. Mi sento un po' così. Vorrei farmi Carla Bruni al club privé con Sarkozy. A volte sì, a volte sì. Dormo con il mio Uzi. Da sempre nutro un grande senso di insecurity nella city. Stanno tutti impauriti se non stanno nei partiti. In London City son partiti nella city. Per sconfiggere la crisi come Bumba di Parigi. Sopravvivi se sei easy. Jack Daniel come se piovesse. Le mie ragazze bevono, prendono certe pezze. Per me son tutte principesse. Le mie commesse iperlordotiche col culo a S. Finta filigrana. Fila, filagra. Finta filigrana. Fila, filagra. Finta filigrana. Fila, filagra. Finta filigrana. Fila, e se la vi. A volte sto ad Abu Dhabi. Puoi incontrarmi alle sfilate di Louis V a Tel Aviv. Scende il PIL in Italia, cresce il mio locale BIP. Con i soldi della street riscossi a 361 street. Se non stai dietro al mio flow posso aspettare un po'. Fare win per capire perché perdi. Grego win, se la vi. Bevo troppo J&B. Ospiti al Chiambretti Night numero 1 pure lì. Se finì, i tuoi racconti son finiti. Prima chiudevo un occhio sui falsari, mezzi finti. Copriti. Chiudo un occhio per mirare non soltanto sugli sticchi. Sodomizzere vuoi vinti, credimi. Non ho niente da dimostrare. Chi ti ascolta già capito che fai schifo, fai cagare. Sei irreale. Guarda il cielo, guarda il mare. Sarò fra le perle rare. Sono l'aquila reale. Finta filigrana. Fila, filagra. Finta filigrana. Fila, filagra. Finta filigrana. Fila, filagra. Finta filigrana. Fila.